Gorgo, l'orco dorato. Quella notte infuriava la tempesta. Il cielo era illuminato dai lampi e i tuoni rombavano minacciosi. Gorgo l'orco volava in groppa a Zago, il suo amico drago, fra le nuvole gonfie di pioggia. Gorgo era un orco giovanissimo, ma aveva già ucciso un perfido mostro bavoso. A ciò non era stato spinto dall'odio, ma da motivi molto più nobili. Così era stato premiato. Da orco rosa era diventato orco dorato. Ora stava tornando a casa da suo padre, il feroce orco rosso. «Siamo quasi arrivati, ragazzo mio!» disse Zago. «Zago, che cos'è quella cosa laggiù?» «Eh? Non saprei. Sembra una nuvola nera di pioggia.» «È proprio sopra la mia valle, ma non è una nuvola. Quelle che cadono sono frecce!» Zago era un po' miope. «Che altro vedi, ragazzo mio? Uccelli! No! Sembrano pipistrelli, ma molto più grossi. Sono verdi come rospi e strane creature li cavalcano. Sono orribili e lanciano frecce e brandiscono spade.» «Sono orchi neri!» esclamò Zago. «Orchi neri?» ripeté Gorgo. «Non c'è tempo per le spiegazioni, ragazzo. Il tuo villaggio corre un terribile pericolo.» Zago volò ancora più in fretta e ancora più in alto, finché si trovarono sopra la massa di orchi volanti. «Ora tienti forte, Gorgo, perché sto per fare una cosa piuttosto difficile e sono un po' vecchio e fuori esercizio.» Zago respirò forte e poi soffiò dalle narici un cerchio di fiamme in direzione degli orchi neri. Un cerchio di fuoco li circondò. Un lampo di luce abbagliò il cielo e lingue di fuoco rosse e gialle inghiottirono gli orchi. Si udì uno scoppiettio come se mille salsicce venissero arrostite e gli orchi neri sparirono nell'inferno. «Zago, caro vecchio Zago!» lo ringraziò Gorgo. Si era accorto che Zago volava a fatica e stava quasi per precipitare sul villaggio. «Zago, Zago, cosa ti succede?» Zago riuscì a malapena a parlare. «Reggiti forte, Gorgo, non riesco a volare bene, sono troppo vecchio per il fuoco, troppo vecchio davvero.» Gorgo si accorse che stavano precipitando proprio sopra casa sua. Zago fece un ultimo tremendo sforzo, batté forte le ali e riuscì a rallentare un po' mentre cadevano sul tetto della casa di Gorgo. Distrussero il tetto, demolirono il soffitto e piombarono sul letto del feroce padre di Gorgo, mandandolo in mille pezzi. Il padre e la madre di Gorgo accorsero, seguiti da Borgo, il dottore e mago del villaggio, che si faceva largo fra la folla di orchi rossi. Sto bene, li rassicurò Gorgo. Aiutate il drago invece. Il padre di Gorgo non aveva riconosciuto suo figlio nel giovane orco dorato e cominciò a ringraziarlo per avere salvato il villaggio dagli orchi neri. «Ma non l'ho salvato io, è stato il drago Zago!» «Il drago Zago?» si stupì la madre di Gorgo. «Nostro figlio Gorgo aveva un amico con questo nome!» Il padre di Gorgo invece si arrabbiò e i suoi corni mandavano scintille. «Zago, non ci credo davvero. È il drago che ha rapito mio figlio e che forse l'ha anche ucciso. Gorgo non era forte e coraggioso come me, ma insomma, io sento la sua mancanza lo stesso. Ha presso poco la tua età.» Il padre lo squadrò con attenzione. «Gli assomigli molto. Lo stesso naso, gli stessi occhi, la stessa bocca, la stessa altezza, lo stesso nome!» esclamò la madre di Gorgo. Finalmente lo avevano riconosciuto. Gorgo accarezzò dolcemente la punta delle loro corna e baciò le loro labbra verdi. Intanto il dottore si fece avanti e sentenziò. «Ho paura che per il tuo amico drago sia proprio finita.» «No, Zago non può morire!» gridò Gorgo e corse dal drago che giaceva avvolto nelle tre grosse coperte rosse dell'orco rosso. Zago respirava appena e teneva gli occhi chiusi. «Zago, oh Zago, mi senti? Sono io, Gorgo!» Zago non si mosse. Lacrime dorate cominciarono a scendere dagli occhi di Gorgo e andarono a inondare il muso del povero Zago. Il drago aprì gli occhi e disse sottovoce: «L'ultima pietra solare, non devono prenderla mai, mai, mai.» E chiuse gli occhi nuovamente. Anche Borgo aveva sentito. Non ci sono più pietre solari. Le hanno prese tutte gli orchi neri e gli slurm. Le pietre solari possono curare. Potrebbero far guarire il tuo drago, per esempio. O possono uccidere. Gli orchi neri hanno fatto di tutto per impossessarsene. Ma bisogna sapere come usarle. E forse loro lo sanno. Bisogna che io le recuperi. Cosa? Sei matto. Non potresti farlo mai. Tutte le pietre sono nella città degli orchi neri. Se uno si avventura laggiù, non torna più indietro. È un posto terribile, pieno di fantasmi e di mostri. Gorgo tremava, ma in quell'istante il sole squarciò le nuvole nere e illuminò con i suoi raggi dorati l'interno della casa. Gorgo si sentì di nuovo forte. Tornerò, disse.